Avete voluto il rigore? Ve l'hanno dato il rigore? L'avete tirato il rigore? È finito sul palo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che contro Eder, che Ischia la mette in mezzo, una buona palla, Alex, è gol ragazzi, l'ha fatto Alexone, non lo voce, abbiamo segnato, abbiamo segnato, Alex, voglio vedervi esultare. Ancora Jack, Niang, gol, non sbagliarti, è mia la voce, se ti sembra che ha segnato gli altri, no, è 3-0 un Bayer, mucchio selvaggio un Bayer. Che meraviglia questo stadio, ho ritrovato il mio amore, Milan, basta veleni, vi prego tutti, basta. Sono fuori dal tunnel, del divertimento, quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento, quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Ma io, questa è un'esultanza che io anche quando giocavo non esultavo mai, è difficile, questa è stata meglio che vincere nel 90esimo, perciò sono contento, dai. Siamo stati anche fortunati una volta ogni tanto. No, ma non so cosa dire sul fallo, si vede che D'Amato non c'è la regola, io non lo so. Io penso che noi abbia fatto un'ottima partita nel primo tempo, c'era un'espulsione da ultimo uomo che l'arbitro non ha dato, allora siccome tutte le volte che a noi i nostri difensori toccano un avversario, c'è un'ammonizione, c'è un'espulsione, c'è un rigore in continuazione, allora voglio capire se le regole sono uguali o non sono uguali. Quindi sono due o tre episodi oggi dove l'arbitro è stato un disastro, così i suoi collaboratori, poi insomma basta questo e loro sono stati peggiori in campo probabilmente. Sono fuori dal tunnel, vabbè, la telecronaca non era di Pardo, questo ve lo posso confermare, ma di Mauro Suma ovviamente. Le voci erano quelle di Mihajlovic, entusiasta con i pantaloni strappati, e di Roberto Mancini, peggiori in campo sono stati gli arbitri, ma forse il peggiore in campo è anche fuori dal campo, anzi levo il forse, è stato proprio Roberto Mancini. Mi aspetto ovviamente la carica degli interisti, nervosissimi come il loro allenatore, dei milanisti sorridenti come Mihajlovic e di juventini e napoletani in piedi sui pedali perché sono in fuga. 8-0, nulla di nuovo su questo fronte. 800240024 per Luigi Pardo, è già collegato. Come va? Molto bene. Tutto bene? E poi abbiamo riconvocato a strettissimo giro di posta, meno di 24 ore, lo ringrazio particolarmente, Tony Damascelli, che per gli ascoltatori di ieri era stato estremamente critico nei confronti di Mancini nel prepartita. Figuriamoci dopo. Ciao, buongiorno. Tony. Buongiorno. Buon pomeriggio. Ho letto il tuo commento in retino grigio sul giornale. Sì. E sei stato piuttosto duro con Mancini, ma condivido gran parte delle cose. No, non sei stato duro. Ho fatto una fotografia. Ma cosa vuol dire essere duri? Cioè, ma questa gente deve anche capire che sono personaggi pubblici, possono sbagliare come posso sbagliare io. Poi è bello sentire ieri Montella e Mancini dire gli arbitri sono suscettibili. E loro? E loro che sono truccati dalla testa ai piedi? Truccati quando parlano, ovviamente. Beh, ma Mancini perde il lume della ragione ormai un paio di volte a settimana, se non tre. Sì. No? Bravo, sì. Pardo, ma sei d'accordo? Ma per me non è una novità. No, con questa frequenza però sì, Tony, con questa frequenza sì. Pardo. Ma io adesso non voglio entrare nella vita privata delle persone perché non sarebbe giusto, corretto, leale, però qualcuno si porta presso anche altri problemi, può darsi, no? Però così ci stai entrando. Cioè, che cosa? Che ha un po' di problemi a casa? Beh, ha avuto problemi a casa, ha problemi paralleli con la giustizia, con mezza Roma, nel senso con la M maiuscola. E quindi sono problemi che uno si porta presso. Questo non significa, no? Non è un alibi, una giustificazione a certi comportamenti abbastanza infantili, puerili e volgari. È troppo facile prendersela con la Micaela Calcagno. Che poi sentiamo. Che poi metti gli attributi sul tavolo quando servono. Mettili. Parliamo di forma. Considerato che sei nato, ribadisco, con la camicia. Sì. Grazie all'allora presidente Petrucci. Sei nato con la camicia. Prima del traffico, prima di entrare in sì, no, prima del traffico, diciamo anche che, ovviamente, essendo quello che dice Tony, qualcosa che supera, diciamo, la normale, diciamo, dialettica, ovviamente. Sì, se Mancini vuole intervenire su questo. No, ma no. Io rispetto, mi sono fermato. Il riferimento a un'inchiesta del 2014. Ma no? Io mi sono fermato perché quelli sono problemi suoi in questo paese nel quale la giustizia ti massacra, parlo per esperienza personale, e la stampa ti sbatte in prima pagina, anche se sei innocente, se non c'è nulla, uno se li porta presso questi problemi. Uno se li può portare appresso, dopodiché li può scaricare con la tensione durante la partita, durante il lavoro, in chiesa, in politica. Però attenzione, io non amo le persone che fanno i moralisti e poi da una parte, in una mano hanno il crocefisso e dall'altra, e nell'altra mano hanno un'altra parte del corpo. Il punto secondo me è esattamente questo, cioè in un clamoroso contrappasso del destino, Roberto Mancini è passato nel giro di pochissimi giorni da essere l'allenatore, tra virgolette, suscettibile, che fra l'altro, io lo sottolineo, ha portato alla luce un problema e secondo me ha avuto un merito. Da quel punto di vista ha avuto un merito, perché poi quello che è nato da quella famosa frase e che poi si è sviluppato e per il quale anche il Napoli ha lavorato moltissimo col suo ufficio stampa, l'amichevole dell'altro giorno, ero presente, la stretta di mano, insomma, è stato trasformato in un'occasione di sensibilizzazione su questo tipo di problemi e su questo tipo di linguaggio, perché poi alla fine siamo arrivati alla conclusione che Sarri era chiaramente in buona fede, credo siamo tutti d'accordo, non è omofobo, ha sbagliato, quella parola lì non si dice perché può riportare dei problemi enormi. È stata un'occasione dall'età ha menato un fiore, un piccolo fiore. Tu fai una cosa di questo tipo e qualche giorno dopo reagisci così, devi accettare che le responsabilità e l'attenzione mediatica adesso vada tutto su quel gesto che ha fatto ieri. Allora, signori, ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo poi sentendo questo scambio di battute molto velenoso da parte tra Micaela Calcagno e Roberto Mancini, cioè più di Roberto Mancini, che della giornalista di Mediaset naturalmente. Poi gradirei parlare anche un po' di quanto abbiamo visto in campo, oltre che fuori dal campo, e all'uscita di Mancini dal campo. Strade. Tutti convocati. Tutti convocati. Le faccio due domande. La prima è su Icardi: se nel momento di calciare il rigore può aver risentito delle dichiarazioni fatte in settimana, quel gol avrei segnato anch'io, magari con un po' di tensione. Allora, questa è una strozzata, dai. Su. Grazie. Siamo seri, dai, per cortesia, perché se mi fa una domanda la settimana, ho parlato ieri, ho detto che è una battuta, se vuoi fare polemica facciamo una polemica, no. Una stupidaggine. Allora, le faccio vedere anche un'altra cosa, siccome il mondo del calcio è molto social e ci sono telecamere ovunque, su tutti. Sì, ho fatto il dito medio a 8-9 tifosi. No, lo chiedo a lei. No, l'ho fatto, no, io quando faccio una cosa la dico, quindi ho fatto il dito medio mentre uscivo perché ho preso degli insulti e quelli non potevano essere lì perché devono esserci gli steward a tenerli dietro, quindi non deve essere lì a insultare e a dirmi tutte le parole. Quindi in un momento così l'ho fatto. Contenta? No, io glielo ho chiesto. Allora, se vi devi fare delle domande per fare polemica, facciamo. Io ho detto, ho risposto. No, ma siccome c'è una cosa che gira su tutti i social, è giusto anche chiedere. Ho detto che l'ho fatto. Cosa ho detto? Va bene, ok, volevo solo... Ecco, allora, basta. Ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Va bene, ok. Ecco. Ok. Grazie. Grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Cagate. Chiamiamolo scazzo se volete, giusto per rimanere nell'eleganza del contesto, in piena regola peraltro. Pierluigi Pardo, Tony Damascelli, ci ha raggiunto Tommaso Labate, che saluto. Ciao ragazzi. Ciao Tommy. Ciao. Ciao. Allora devo dire, utilizzo privato di mezzo pubblico, che ieri nella chat di amici con la quale sono, insomma, chatto appunto con l'Abate ed altri contemponi, gli davamo gli aggiornamenti durante fuori onda. Com'è stata la tua serata, l'Abate? Diciamola, magari utilizzando un linguaggio consono alla radio di Confindustria, ecco. È stata una serata drammatica in cui praticamente la mia serata si è conclusa penso all'una di notte, perché avevo registrato la partita, stavo conducendo fuori onda, sono scappato via alla fine del programma senza accendere il cellulare, e quindi diciamo all'una ho visto il materializzarsi di questo grande disastro, col seguito che ho preso stamattina, perché avevo mandato proprio una nota audio alla chat, ma tutti dormivano, a quello della serie ditemi che ha fatto Mancini dopo. Ho scoperto questa mattina il battibecco con la Calcagno, completamente squalificante. Cioè, era difficile per il Mancio fare peggio di così, rispetto a quanto ha fatto sul campo. Ha fatto molto peggio fuori. Era difficile, Tony Damascelli, fare peggio di quanto ha fatto sul campo? No, ma sul campo si commettono errori e Mancini ne ha commessi tanti. Ieri, l'altro ieri, io non ve lo ribadisco, per me è un buon allenatore, non è un grande allenatore. Si porta presso questo cognome, questo look. Ha il culo nella Nutella ed è protetto, a differenza di altri, li avrebbero già impacchettati. Altri sono stati impacchettati con gli errori commessi da Mancini. Sì, ma voi fate l'elenco dei giocatori, ricordatevi solo di Shaqiri e Podolski, li ha voluti lui. Sì, Tony, è il numero uno nel farsi comprare i giocatori e posso. No, ma non solo quello. Se vuoi, allora vuoi che portiamo a testimonianza degli ex calciatori della sua generazione come lui si comportasse in campo con loro? No, però io quello che dico è che non è che la io non sono sorpreso, sono d'accordissimo ovviamente su stigmatizzare no. L'atteggiamento di ieri e ne abbiamo già parlato. Ma non solo di ieri, e questo è l'errore, no, come ieri, il frocio al finocchio di Sarri, cioè a parte che non c'è stata nessuna missione evangelica per cui ha scoperto e ha tirato fuori un problema, quale problema? Quale problema? Che uno è un cafone, come quelli che bestemmiano, quelli che danno del frocio, ma qual è il problema? Dov'è il problema? Che tu pensi che quel battibecco tra il signor Sarri e il signor Mancini abbia risolto il problema? No, non ha risolto il problema. Però ieri, l'altro ieri, io ho ascoltato in TV le radiocronache, le telecronache delle partite, ho sentito continuamente dire il cognome di un calciatore, di un allenatore, figlio di puttana, e allora? Quello va bene. No, quello non va bene. Ma allora non va bene, ma è ormai una discarica, una discarica nella quale ci siamo anche noi. Sì, però se nella discarica gentilmente non si utilizzano termini che possono rappresentare discriminazioni di tutti i tipi, discriminazione territoriale, e Napoli sappiamo che spessissimo ne è vittima, discriminazione razziale o discriminazione sessuale, è meglio. Cioè, se si dice figlio di, o se si dice vaffa, è più accettabile. Secondo me la lezione è questa, una lezione dal punto di vista del linguaggio, perché ancora oggi esistono purtroppo discriminazioni. Quindi secondo me da questo punto di vista Mancini ha provocato un effetto positivo, poi quella vicenda si è chiusa bene, Sarri gli ha chiesto scusa, lui ha accettato le scuse, è andata bene. La vicenda di ieri però, a pochi giorni di distanza, è un clamoroso contrappasso. Dal punto di vista tecnico, io non penso che Mancini adesso possa essere improvvisamente liquidato come una pippa. Penso che la situazione di classifica dell'Inter è buona, chiaramente non è più quella di un mese fa, c'è poco da fare. La squadra, lo dico dall'inizio della stagione, ha poco gioco sicuramente, e si è retta su un'intuizione, quella giusta, di una squadra che è diventata quest'anno più solida, più muscolare. Il problema è che negli ultimi dieci giorni ha perso questa solidità. Ha perso anche brillantezza, e questa può essere la conseguenza. Non mi puoi attribuire cose che io non ho detto in maniera stalinista. Io non ho detto che è una pippa, ho detto che è un buon allenatore, non è un grande allenatore, però a differenza di altri conserva questo alone ed è un'immaginetta sacra, per cui ho chiamato Mancini, capito? Con chi vuoi ricominciare? Certo. Ecco, gli errori sono mille, non uno. Ieri ha commesso altri errori. C'è un disegno tattico dell'Inter, se qualcuno me lo spiega io sono felice di apprendere. No, c'era c'è un disegno, no, assolutamente no, non l'ha detto Pippa Toni, no, voglio dire, però manteniamo un equilibrio, nel senso che se fino a 3-4 settimane fa la stagione dell'Inter era un capolavoro, oggi non è più un capolavoro, è una stagione, no, è una stagione buona, stanno buona, buttando via quanto costruito nella prima fase. C'è Tommaso, un disegno tattico l'Abate? Guardando la partita nella notte, quando hai visto due centrocampisti poi tritati dal dai centrocampisti del Milan, con Kučka e Honda che hanno fatto forse la miglior partita in carriera, magari sto esagerando, ma sicuramente la miglior partita della carriera rossonera, e quattro mezze punte, puntine, punte, puntarelle davanti. Ragazzi, io vi devo dire, devo ammettere, come tifoso sono lo scemo del villaggio, perché io vedo nei tabellini del prepartita il 4-2-4 e mi viene una sensazione di eccitazione che sorpasso tutto. Ovviamente poi la realtà è un duro ostacolo con cui scontrarsi. Abbiamo beccato ieri Montolivo, che sembrava junior ai tempi del Pescara e del Torino. Honda ti dice di essere lento e pareva Pietrino Fanna. Cioè, ci ha detto male, la squadra l'ha schierata male. Detto questo, do ragione a Pierre sull'organizzazione del gioco dell'Inter, tant'è che, come è noto, io misuro il tempo in puntate di tiki-taka. 7-8 tiki-taka fa al massimo della sua spinta propulsiva, della spinta propulsiva dell'Inter. Dissi che il vero valore aggiunto era lo spirito dello spogliatoio, questa squadra che sembrava muoversi tutta unita, questo epic brozzo che sembrava averla compattata anche dal punto di vista simbolico. Qualcosa si è rotto quella maledetta notte serata contro la Lazio, dove ci sarebbero stati poi smentiti le risse negli spogliatoi, e da allora nulla è tornato come prima, perché Pier su un punto c'ha ragione: questa squadra non ha mai avuto un grandissimo gioco. D'altronde, parliamoci chiaro, le squadre che vincono 1-0 non te li trovi al manuale, alla pagina 4-5-7 del manuale del calcio famoso di Altafini. Ultima postilla, se me la concedete, sul dibattito post Inter Napoli-Inter di Coppa Italia con le frasi di Sarri. E la questione Mancini, come diceva Pardo, ha alzato un velo, ha squarciato un velo, c'è stato il dibattito, però c'è da dire che Mancini, faccio ammende e parlo anche un pochino di me stesso, della nostra categoria, eccetera, un pochino è stato lasciato solo. E la squalifica light della Federcalcio rispetto a Sarri ha fatto in modo che la cosa finisse in burla. Poteva essere una grande occasione, perché le cose che giustamente Tony diceva di aver sentito ieri allo stadio si sentissero un pochino di meno. È stata persa una grande occasione, e Mancini, secondo me, sentitosi isolato, con i risultati che poi non sono arrivati, il gol di Lasagna, che tra l'altro ci segnano tutti questi qua con i nomi strani che sembrano un regalo agli haters di Twitter, cioè pazzesco, non poteva segnare, non so, Mancosu, no, ha dovuto segnare Lasagna. Pure Mancosu non è che sia un nome, lo salutiamo Matteo, però voglio dirci, certo, Lasagna, fra l'altro. Ma io ho detto Mancosu perché ce l'ho al fantacalcio. Ah, certo, perfidamente, non so se ne abbiamo parlato giorni scorsi, quando mercoledì c'è stata la partita Juventus-Inter, nel bar media, nel bar stampa dello Juventus Stadium, è stato proposto come piatto la lasagna, la lasagnetta. Questo in maniera proditoria. In maniera proditoria. Totalmente deliberata. Io ringrazio Tommaso Labate, rubo un'ultima. Grazie, Tommy. Ragazzi, grazie a tutti, grazie anche del conforto. Ciao Pier, ciao, ciao, ero l'ultima battuta a Tony da Pascelli, per chiedergli qual è la strada adesso per l'Inter. La strada dell'Inter, no, non lo so, non hai idea. Non lo sanno nemmeno loro, però quello che ha detto Tommaso Labate è peggiore di quello che ho detto io. Ha detto non ha mai avuto un gioco. Mm-hmm. Ma cioè, uno ha un allenatore che passa per essere uno bravo, prende 4 milioni all'anno, è passato un anno e mezzo e Tommaso, che è un tifoso, dice questa squadra non ha mai avuto un gioco. Oh, c'era un grande elemento di novità. Vogliamo parlare dello spogliatoio dell'Inter. Cos'è lo spogliatoio dell'Inter? Chi è il leader di questa squadra? Datemi un nome. Chi è che raggruma questa squadra? Quello che fece Mourinho dopo Mancini, diventò lui il capitano della squadra, sì, il capitano della curva. C'erano anche altri giocatori. No, non c'erano altri giocatori. Adesso, attenzione, perché anche lì il signor Mourinho voleva portare Carvalho, voleva portare Diego, voleva portare i suoi portoghesi e non li hanno portati, hanno preso gente come Schneider, come Vito e come gli altri. Il problema è che tu devi avere un uomo che a un certo punto dica punto a capo. Chi lo fa? Chi lo fa? Ve lo chiedo. Se mi fate un cognome, uno solo. Nell'Inter doveva essere Roberto Mancini. Ah, ed ecco. È quello che forse ha fatto per un certo periodo. Sì, probabile. Sì, no, ma guarda, secondo me adesso è interessante capire come si svilupperà questa situazione. Nel senso che se ci sarà un ricompattarsi del gruppo, nel senso che il gesto di ieri, per quanto ovviamente sbagliato, però è un gesto che potrebbe polarizzare il popolo nerazzurro, compattarlo attorno a questo allenatore, quindi questa è una strada secondo me possibile. È chiaro che quello che ci si poteva aspettare non è avvenuto, cioè quando in quel martedì sera di 2 settimane fa c'è stata quella presa di posizione di Mancini contro Sarri, molti, per esempio il signor De Luca che adesso è in regia, pensavano è la fine del Napoli. Il Napoli invece, adesso avrà invece un grande casino. L'Inter che ha preso, che ha reso la botta, il Napoli si è ricompattato e l'Inter paradossalmente è entrata in confusione da questo punto di vista. Adesso la situazione è potenzialmente opposta, vedremo se Mancini riuscirà a ricompattare la squadra, ma mi sembra che ci sia anche un problema oggettivo con gente come Icardi, cioè, Icardi per esempio è un tema oggi, sento parlare addirittura di una possibile cessione, si è diffusa questa voce, magari una butad, si è diffusa questa voce, mi sembra una butanad. Grazie Tony. ciao Tony. Tony Damascelli. Ci fermiamo invece noi per la borsa, poi ovviamente carica degli ascoltatori 800240024 e naturalmente tema l'Inter, ma tema anche il Milan, che invece ha tutt'altra faccia. Io continuo a pensare che non sia da corsa per la Champions fino a prova contraria, e ne servirà qualcun'altra di prova contraria, però molto logico, razionale, stretto intorno a Mihajlovic. Poi voi mi direte, ma giocare con quest'Inter tutto sommato è forse semplice, o la verità sta nel mezzo? Ma parleremo anche di Napoli e Juventus che sono scappate. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Insigne, occhio al destra giro, il cross per Higuain! Gonzalo Higuain al 33esimo, il gol dell'1-1. Ancora Rick Steiner, palla sul destro, conclusione, Morata! 1-0 Juve, Morata si sblocca! Parte Insigne! Una magia di Lorenzo Insigne! Il Napoli adesso è avanti, 2-1! Palla per Khedira, che la mette in mezzo, Morata! 2-0 Juve! Un orologio perfetto, un meccanismo letale! La mette dentro sul secondo palo, c'è ancora Kayak! Oh! La doppietta di José María Callejón! Come vi ricorderete, come abbiamo fatto noi in questo modo a ricordarvelo, ieri Napoli e Juventus ci sono andate giù leggere, con rispettivamente con l'Empoli e con il Chievo in formato ridotto, come ha raccontato Pardo, Chievo cui mancavano tanti titolari. Per rimanere in tema di allenatori, il Manchester City è ufficiale, ha ingaggiato Guardiola, ha firmato per le prossime 3 stagioni ed è stato comunicato quindi ufficialmente. In secondo luogo, prima abbiamo sentito Tony Damascelli parlare di problemi che Mancini si porterebbe dentro il campo, non ne so nulla e non, francamente non me ne importa nulla. Pardo, ci sei? Ci sono, eccoci qua. Eccoci. Parliamo con gli ascoltatori, poi voglio affrontare il tema. Sì, no, diciamo, chiariamo la cosa, che Damascelli ha fatto riferimento a un'inchiesta che riguarda, credo, un immobiliare nella quale... era stato coinvolto Mancini assieme a Mezza Roma, ovviamente, insomma, noi non è che sappiamo molto di questa inchiesta e francamente a me sfugge anche il fatto che ci possa essere un nesso sull'umore di Mancini. Siamo ovviamente a disposizione di Mancini per chiarire, e vale il principio questo assolutamente condivisibile al quale faceva riferimento proprio Tony, cioè il fatto che, lo diciamo continuamente tutte le volte che c'è un'inchiesta, ce n'è una perché ogni mezz'ora, ci deve essere la presunzione di innocenza, altrimenti questo noi, sempre, se no, noi della stampa finiamo per fare gli incendiari e facciamo il contrario di quello che dovrebbe essere, no? Sì, piantiamo l'argonia in mezzo alla piazza, l'argonia mediatica, per cui ci sono pagine e tante volte pagine, inchiesta eccetera eccetera, e poi quando magari c'è una soluzione, io addirittura sarei... non rinvio a giudizio, magari c'è un trafiletto all'ultima pagina. Allora, siccome io noi sarei giornalisti... per far calare un totale silenzio su ogni vicenda giudiziaria, certo, però... contrariamente a agli interessi di chi fa questo mestiere. No, certo, per far calare però dobbiamo renderci silenzio. Conto che abbiamo un grande potere, quindi insomma da questo punto di vista, che è quello di attribuire anche in assoluta buona fede, perché poi per carità, però insomma di maneggiare una materia molto delicata che poi in qualche modo può influire sull'immagine delle persone che, ripeto, fino all'ultimo grado di giudizio ovviamente sono innocenti. Renato Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire su Mancini. Sì. Penso Toni Damascelli il parere di Toni Damascelli abbia rispecchiato l'opinione di parecchie persone, insomma. E lui non l'ha detto, ma secondo me Mancini è una pippa. Mancini? È una pippa. Mancini è una pippa. Ah, una pippa. È una pippa. Lui ha detto che è un buon allenatore, però Mancini è una pippa. Il curriculum sembrerebbe dire qualcosa di diverso. Il curriculum ha vinto parecchio, diciamo, per essere una pippa. Sì, diciamo che ha vinto col Manchester, dove andate a rivedere la squadra che si è fatto comprare, e poi ha vinto in Italia, perché in Italia le squadre scarse, arrivando terzo, è difficile che vincano. Non si può dire che uno vinca, No, però io guardi, perché dai, ogni parere è rispettabile, insomma, anche se pippa chiaramente è un'espressione un po' al limite, però va bene, insomma, il concetto è chiaro ed è ovvio che in questo momento, dopo una sconfitta come questa, dopo un errore come quello del dito medio, un tipo di pensiero di questo genere può anche fare facilmente proseliti. Io, così come all'inizio della stagione non stavo a sperticare di lodi l'Inter perché non mi piaceva molto il modo che aveva di giocare, oggi mi sembra che ci sia, mi viene voglia di fare il discorso inverso, e se guardiamo la carriera di Mancini, guardiamo uno che ha vinto il campionato in Italia, ha vinto il campionato inglese dopo 50 anni col Manchester City, per carità, con una grande squadra, ma senza grandi squadre non vinci. Questo mi sembra una banalità, ma Italia, è vero. L'ha vinta a Firenze, l'ha vinta a Roma con la Lazio, l'ha vinta con l'Inter, insomma, francamente gli allenatori scarsi secondo me sono altri. Poi che in questa stagione, ad esempio, quell'evoluzione tecnica, quell'evoluzione, quello sbocciare che doveva esserci per rendere l'Inter competitiva per il titolo non si stia verificando, questo è indiscutibile e lo sottoscrivo, ma da qui a dire che è una pippa mi sembra... Senti, come, dimmi una cosa, come valuti? C'è anche Nando Orsi in linea, che saluto. Ciao Nando. Ciao, buongiorno. Allora, coinvolgo anche lui nel discorso. Come valutate la formazione che ha messo Mancini nel primo tempo di ieri, di cui avevamo avuto una soffiata peraltro alle 18:50? Posso dirti una cosa? Dimmela. L'Inter ha finito malissimo la partita. Il Milan gode, ma fa benissimo a godere. Posso dirti una cosa? A me nel primo tempo non è dispiaciuta l'Inter. È stata una partita, fino al calcio di rigore sbagliato da Icardi, assolutamente equilibrata, decisa anche dagli episodi, decisa dalle situazioni sotto porta, perché Eder si mangia un gol importante nei primi minuti, perché Donnarumma fa una partita spettacolare. Quindi poi è chiaro che nel calcio rimangono i vincitori da una parte, i vinti dall'altra, i primi si beccano gli applausi, i secondi si beccano i fischi. Poi Mancini l'ha finita malissimo con quel gestaccio, l'ha finita malissimo reagendo nervosamente con la calcagno, quindi su questo non c'è, però il calcio è veramente sliding door, la partita ieri è stata una partita sliding door, questo non c'è dubbio, non c'è discussione. Probabilmente se Icardi avesse segnato quel rigore l'Inter non avrebbe perso questo derby, e oggi parleremo di una cosa diversa, parleremo magari di un 1-1, perché dopo 5 minuti cominciava a subentrare la paura, magari non lo so, a me l'Inter non è stato, ripeto, un 3-0, scusa per 5 secondi, non è stato un 3-0 di massacro. Io ieri ho commentato Chievo-Juve 0-4, c'è stata Napoli-Empoli, quelle sono partite finite in goleada con una superiorità evidentissima di una squadra sull'altra. È stato un 3-0 dove i tifosi del Milan possono giustamente festeggiare e fare i caroselli per i prossimi 3 mesi, perché è una grande gioia, quelli dell'Inter essere molto tristi, ma è stata una partita fino al calcio di rigore sbagliato assolutamente equilibrata per me. Sì, soprattutto il primo tempo, Nando. Sì, soprattutto il primo tempo, anche se certe scelte di Mancini a me sinceramente non mi sono piaciute, certo. nel senso che Santon dal primo minuto, dopo tanto tempo che non giocava in un derby così, mi è sembrato perlomeno quantomeno azzardato. Poi dopo il tridente lì leggero, Mancini poi lo ha giustificato dicendo che non voleva giocatori di movimento, voleva giocatori di movimento, non voleva dare i punti di riferimento, però forse in una partita così l'attaccante, il centravanti serve, soprattutto questo momento particolare dove Icardi forse sta soffrendo il fatto che non fa gol, ma anche il suo allenatore non è che sia contentissimo dell'attacco, gli ha preso Eder, Quindi è sembrata un po' una bocciatura, sì, perché tu prendi Eder e non fai giocare Icardi, non sono lo stesso ruolo, però insomma tutti ci aspettavamo di vederli, esatto, di vederli insieme, esatto, tutti di vederli insieme, soprattutto una partita così. Poi dopo è vero che tutto è cambiato per rigore, però è anche vero che non è che se io sbaglio rigore sull'1-0 si può perdere 3-0 una partita, la partita è sempre in bilico, è sempre lì, è una grande squadra come dovrebbe essere l'Inter, secondo me deve reagire. Ma secondo me Milan aveva già preso la partita in mano, Nando, ho avuto questa sensazione, come se Milan avesse il centrocampo dominato proprio. Sì. No, su quello non c'è un dubbio, perché poi presidiato. Se l'è giocata bene Mihalovic, Mihalovic se l'è giocata bene, perché non ha fatto giocare Bertolacci, ha fatto giocare Kučka, quindi fisicamente se l'è giocata lì in mezzo al campo, l'ha vinta la cosa. I giocatori lì davanti del Milan sicuramente negli spazi sono più bravi, perché, perché cercano la profondità, mentre quelli dell'Inter giocano sempre soltanto palla al piede per cercare, e per cercare di saltare l'uomo che sistematicamente spesso non saltano. Quindi c'è stata una cosa, però dico che dopo il gol, dopo l'1-0, il rigore sbagliato, non è che devi necessariamente perdere 3-0 e perdere la testa, sì, cioè se la perde l'allenatore non ho detto che la debba perdere la squadra. No, però è un sintomo, se la perde l'allenatore è un sintomo. Non ci sono dubbi. È un sintomo. Però devo dire che l'Inter perde sempre le partite quando forse gioca le sue migliori partite, perché col Sassuolo ha perso una partita al 90esimo quando l'aveva giocata molto bene, con l'Inter l'ha persa in questo modo. Quindi diciamo che c'è un bel po' di problemi, cioè i pregi che noi pensavamo ci fossero all'inizio dell'anno forse sono diventati dei difetti, perché la grande difesa... invece adesso non è più una grande difesa. Sì, complice secondo me anche un fattore fisico che continuo a notare e a sottolineare, che mi sembra in netto calo rispetto a quanto non accadesse prima di Natale. Fermiamoci un attimo per il traffico, subito dopo tocca a Luigi da Pisa, 800240024, Pierluigi Pardo, Nando Orsi, state lì, arriviamo. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Tutti convocati. Buongiorno Luigi, dica. Buongiorno, vi ringrazio per la mia lunghissima convocazione. Ero in Thailandia quando si è scatenato il caso Sarri Mancini. Ah. Avrei voluto chiamarvi mille volte ma non riuscivo. Comunque Thailandia, a me è quello che non mi sono mai piaciuti, i personaggi falsi moralisti. Mancini sapeva benissimo, ognuno di noi sa benissimo i propri peccati che ha fatto nella vita, no? E Mancini, a partire dal fatto che, se mi ricordo bene, è stato il primo allenatore in Italia ad allenare senza la licenza di allenatore, e fu fatta una regina speciale per lui quando allenava la Fiorentina, e poi i vari casi che avete già detto voi, quello del Nero, quello del Procio, quello del dito di ieri, fate caso una cosa: mentre il povero Sarri ha chiesto umilmente scusa davanti a tutti, avete sentito dire scusa al signor Mancini? O come ieri sera l'ha detto a quella signora, la giornalista, in una maniera arrogante e basta. Arriveranno le scuse, secondo me arriveranno, sì. E sono d'accordo con lei, insomma è chiaro che Mancini dovrà scusarsi. Mi pare siano arrivate. Sono già arrivate via Twitter, sì. Sono già arrivate via Twitter. No, ma io guardi, però... secondo me oggi Mancini sta finendo in una categoria che è quella di dei simpatici e degli antipatici, cioè secondo me sento da tanti giudizi che lo si sta valutando in una maniera positiva o negativa a seconda delle simpatie. Mancini è un buon allenatore, un ottimo allenatore, uno che ha vinto, non lo so, scegliete voi la categoria. È chiaro che nella storia del calcio internazionale ci sono allenatori anche italiani, penso a Carlo Ancelotti, penso a Fabio Capello, che se andiamo a guardare la percentuale di successi sono avanti a Mancini. Detto questo, Mancini comunque è un allenatore che ha vinto, sì, è un allenatore che ha vinto, un allenatore che ha fatto stagioni importanti. Farlo diventare un brocco in due ore, oppure è vero che ci ha avuto quella leggina lì, però è anche vero che ha vinto subito la Coppa Italia con la Fiorentina. Cioè, francamente, che Mancini possa aver avuto, ma non è il solo, come altri allenatori all'inizio della sua carriera, dei benefici dovuti alla sua immagine, al suo talento da calciatore, al fascino che certamente alla carriera che è stato ha fatto, grandissimo alla carriera che ha fatto, questo è indiscutibile, però non mi sembra il solo, francamente. No, mi sembra un po' un tiro al bersaglio, dai, per lui, ecco, mi sembra un po' un tiro al bersaglio che non è ingiustificato. Mi sembra che ci sia dei pregiudizi e della prevenzione, ma ci sono sempre stati fin dagli inizi. D'altronde Mancini è sempre stato un personaggio scomodo sia da giocatore che anche da allenatore. Ha precorso i tempi, spesso tanti allenatori sono rimasti un po' interdetti sul fatto che lui abbia cominciato subito dalla Serie A, ma non è un problema suo, l'hanno chiamato, poi Mancini, certo, non se ne fatte lui, non se le ha fatte lui, ma gliel'hanno fatte forse a suo favore, non so per quale, però poi dopo se le ha meritate, perché non è che non ha vinto, in Italia ha vinto, in Inghilterra ha vinto, in Turchia ha vinto, poi dopo ci saranno anche altri allenatori bravi, nessuno lo mette in dubbio, ma io penso che Mancini sia un po', posso dire la mia? Secondo me Mancini è stufo di, cioè si è pentito di ritornare in Italia, questo io sono convinto. Vabbè, per come posso conoscerlo, no, quindi è un po' dire, di noi so, ne parleremo, se... non ci siamo sentiti prima, ma questa è un po' anche una un po' la chiave della, dell'editoriale di Terruzzi, nel senso che io vedo delle cose da parte di Mancini, forse un po' di esasperazione, ripeto, secondo me ha fatto degli errori in questi giorni, ha fatto dei grossi errori, nessuno e stasera ne parleremo, come una settimana fa parlavamo di Sarri, a chi tocca Anzengrugna, si dice a Roma, si parla di quello che succede, è impossibile e sarebbe assurdo da parte di Mancini pretendere il silenzio su questa vicenda, soprattutto dopo che lui se l'aspetti, non credo se l'aspetti. Detto questo, sono d'accordo al 100% con Nando, che fra l'altro lo conosce bene e ci ha lavorato, mi sembra veramente ingeneroso adesso improvvisamente farlo passare per un anche perché insomma 3 settimane fa, un mese fa era in testa alla classifica ed era pronto per la beatificazione da parte dei tifosi interisti. Ragazzi, vi chiedo invece di dirmi una parola sulle due che sono scappate, perché Pierluigi ieri ha commentato la partita della Juventus, Nando Orsi era invece in gabina di commento per quanto riguarda quella del Napoli, a me fa molto ridere in quella della partita del Napoli, sono quello che si vede è che sono nettamente più forti di tutte le altre in questo momento e che sono squadre, mi pare, in evoluzione, in accelerazione ulteriore. Ma parto io che ho fatto la Juve ieri, è chiaro che è stata una partita in qualche modo condizionata dalle assenze nel Chievo, nessuno si è scansato, tanto per essere chiari, però è evidente che il Chievo ieri ha affrontato la partita senza Paloschi, che è partito per monetizzare un po' con lo Swansea, e senza Cesar, che comunque è un difensore importante, che era squalificato, senza Etemai, senza Gamberini, senza Meggiorini, insomma alla fine senza Isco, per diverse ragioni. Maran, secondo me, poteva col senno di poi magari provare la difesa a 5, provare a giocare a specchio con la Juve, non l'ha fatto, è venuto fuori un disastro, però la Juve sta benissimo, si diverte a giocare, ma penso che Nando dirà più o meno le stesse cose del Napoli, che oltretutto ieri ha avuto anche il piccolo contrattempo di passare in svantaggio, che secondo me è un'ulteriore sottolineatura del fatto saltato, che sta bene, ha no? saltato Bravo. Un paio di piccoli ostacoli, no, il primo un paio di piccoli ostacoli, il primo, vabbè, scusa, forse sarà l'uguale, è il fatto che alle 3 del pomeriggio era dietro in classifica, era seconda. Bravo, sì, ma poi era seconda non dietro a una squadra normale, dietro alla Juventus, che è lo spauracchio dell'Italia da 4 anni a questa parte, è sceso in campo da seconda e ha beccato il gol quindi due cose, però ha avuto anche 2-3 minuti, 5 minuti di blackout, poi dopo si è svegliato il Pipita, l'ha messa dentro 1-1, 2-1 Insigne, che poi tra l'altro non fanno neanche gol semplici, fanno gol difficili, cioè questa è la grande, cioè fanno gol difficili e quando non li fanno difficili li fanno su azioni manovrate, sembra il Napoli spesso, una squadra di rugby, comincia da una parte e finisce dall'altra, e le altre squadre lo sanno ma non riescono mai a contrastarla, no, su queste cose, quindi la forza è proprio quella, cioè il Napoli sembra, a differenza della Juventus, cioè il Napoli sembra una squadra di ballerini, molto fluente, molto leggiadra, no, che va, e la Juventus sembra una corazzata di quelle importanti, quindi la bellezza proprio di queste due squadre è la grande forza che hanno, ma soprattutto il modo di giocare differente, che vincono in maniera senza neanche aver problemi, quindi sarà bello vedere questo scontro diretto. Sì, decisivo secondo me no, cioè è una partita, però è ovvio che se vince il Napoli arriva a 5 punti, qualche problema ce lo puoi avere, se vince la Juve va un punto sopra, un punto non è niente, io penso che saranno gli scontri diretti fra queste 4-5 squadre che stanno là, che saranno determinanti, ecco. Sì, io credo che sarà determinante la regolarità nel cammino, perché qui nessuno può mollare niente per strada, e mercoledì già si gioca. Lazio-Napoli è una partita seria complicata, lo so, no? Però Lazio-Napoli, Pierluigi, la Lazio gli mancano 10 giocatori, è in un momento particolare veramente, cioè è vero che poi la Lazio vince con l'Inter, vince con la Fiorentina, quindi è una squadra difficile, però veramente ieri gli sono squalificati Madri, poi Georgievic non c'è, Milinkovic non c'è, Cataldi forse non c'è, Biglia non c'è, De Frey non c'è, insomma comincia a diventare tanti, Ah, chiaro. Sì. Juventus invece con il Genoa, ma Juventus sembra onestamente inarrestabile. Allegri ieri ha detto dei record, ma importa nulla, ieri ha pareggiato quello di Conte. Io non faccio fatica assolutamente a credere ad Allegri. Mentre abbiamo trovato, vi faccio sentire prima di salutarmi uno spunto che unisce Sarri a Benitez. Qual è, Pardo? C'è un comune denominatore tra Sarri e Benitez. Tra Sarri e Benitez, non lo so. Vai tu. Vado io. Ok, sentiamo cosa ha detto Sarri ieri. Io penso che il mio compito sia quello di cercare di far rendere al 101% quelli che ho a disposizione. Poi questo 101% a cosa può corrispondere a fine stagione, io questo non lo so ancora, anche perché la mia esperienza con questo gruppo, con questa squadra è di pochi mesi. Però sono contento di allenare questi ragazzi, poi è chiaro che alla lunga il fatturato pesa. Il fatturato. Benitez aveva detto una cosa? Uno che capisce il calcio, che fa un'analisi da fuori, dice la realtà è che noi siamo il quinto fatturato e con questa realtà dobbiamo puntare o provare a essere più vicino. Come lo facciamo? Lavorando tantissimo, facendo più reti, migliorando la fase difensiva, migliorando la struttura e lavorando di più, non è un altro segreto. E lo dico io, che l'ho fatto con il Liverpool e che l'ho fatto con il Valencia e che l'ho fatto anche con il Chelsea. Non è che io vengo del Real, del Barcellona, di vincere il campionato spagnolo, vengo con il Valencia o il Liverpool, di vincere la Champions. E quindi il signor fatturato è citato da entrambi gli allenatori. Ragazzi, siamo alla fine dell'ora. Nando, grazie. Alla prossima. Ciao, però no, volevo dire tanto un secondo una cosa. Sì, dilla. Cioè, non è che la Juventus non si allena come il Napoli, non lavora molto più del Napoli. Non è che in campo vanno i fatturati, i giocatori. Lo dico sempre, in campo non vale strato conto. Esatto. Grazie, Nando. Ciao, ragazzi. Ore 23. C'è Boateng, c'è Zeman. C'è Insigne, Tiki Chat, c'è Floris, c'è il signor Cruciani, sì, ormai fisso, c'è Massimo Ghini, c'è Matilde Gioli, c'è Melissa Satta, c'è Giampiero Mughini e c'è il mercato che chiude, tutti tranne Genta. Ma vieni pure tu, Genta. C'è anche il mercato, c'è il mercato che chiude, perché partiamo praticamente in concomitanza con la chiusura del mercato, la campanella del mercato. E vieni a trovare Genta, che fai stasera? Ti vengo a trovare. Che fai, a Pavia? Pare di sì. Sentiamo dopo. Ciao Ciccio. Allora, stop. Torniamo appunto con il torneremo nel mercato con altri argomenti dopo il GR. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Sacco di ascoltatori come d'abitudine. Sacco di convocati. 800240024, numero verde. Daniele da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io sono. Vi faccio i complimenti innanzitutto per la trasmissione che seguo tutti i giorni. Grazie. Io sono un interista di quelli proprio sfegatati. Ho 55 anni, quindi fin da bimbo ho sofferto, ho cominciato a soffrire, le ho viste tutte, ho visto tutto quanto. Io credo che sia lampante che Mancini sia semplicemente sopravvalutato. Poi non è sicuramente una persona incapace, perché stiamo parlando di niente, se no altrimenti sono d'accordo. Però se andiamo a vedere anche la sua storia, a cominciare dall'Inter che ha ricostruito ma dove non ha vinto niente a livello internazionale, perdendo partite assurde col Valencia, col Villarreal, e arrivando addirittura col Liverpool a dire io non sarò più l'allenatore dell'Inter, sì, ricordo bene, alla fine di quest'anno. Ricordo bene. Questa cosa qua, a Mancini certamente manca un palmarès internazionale, non lo stiamo scoprendo adesso. Oltre a questo, secondo me, in un'azienda Non può esistere che una persona a metà anno si permetta di dire io a fine anno non ci sarò più. Abbiamo vinto lo scudetto con due gol di Ibrahimovic a Parma, che la Roma stava quasi recuperando un sacco di punti. Perché lui... ricordo, nella pioggia segnò quel gol Ibrahimovic, cioè, lo scudetto finì all'Inter. Non si può dire a metà anno, però c'è chi lo fa. Ad esempio, abbiamo raccontato oggi e in questi giorni la situazione del Bayern di Monaco, che sta stravincendo ovviamente il suo campionato, 8 punti di vantaggio su Borussia Dortmund, e, senza considerare le altre. E il Bayern di Monaco ha in panchina un allenatore che oggi ha ufficializzato di aver firmato un contratto di 3 anni con il Manchester City, e quindi sappiamo già chi sarà il prossimo allenatore del Bayern di Monaco. Quindi sono cose che si possono fare, si tratta di gestire situazioni. Certamente la gestione di Mancini a Liverpool non fu ottimale. Continuo a pensare che Roberto Mancini sia un bravissimo allenatore, molto carismatico, e può essere un uomo, e sta facendo l'uomo guida della società, e questo secondo me è il merito principale che ha in questa stagione Mancini, cioè quello di dirigere una società in contumacia del proprietario, che sappiamo si trova da altre parti. Gianni Siracusa, buongiorno. Buongiorno a voi. Sentite, io vorrei porre un quesito che mi è venuto in mente ieri sera durante la vicenda del derby, no? Io sono un tifoso juventino, quindi non ho niente a che vedere con l'interesse personale. Per quanto riguarda l'episodio della mancata ammonizione, concessione della ammonizione a 2 contro il Milan per l'intervento di Donnarumma, mi chiedo, esiste ancora la possibilità di ripetere una gara per errore tecnico dell'arbitro? No, perché quello mi sembrerebbe un chiaro caso di errore tecnico, per cui la gara potrebbe anche essere ripetuta, o no? Non vedo assolutamente questa possibilità. È stato un errore tecnico e siamo tutti d'accordo, un errore tecnico che ha scatenato Mancini e che probabilmente su quell'onda emotiva ha tolto energia all'Inter, però non si può parlare di ripetizione in questo caso. Gianfranco Verona, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo solamente dire una cosa. Sì. Cioè, diciamo, l'Inter ha comprato quel giocatore Eder che poteva fare la differenza, ma sono convinto che nella squadra ci vuole, come dicevo tempo fa, che avevo già intervenuto, ci vuole anche un direttore che organizzi, che prepari questa squadra. Per conto mio, all'Inter manca il centrocampo, manca il cuore, per cui comprando Eder, che potrebbe essere una punta, una mezza punta, come si vuole, cioè, se manca il centrocampo, come si può pretendere che le punte possono fare i gol o così via, eccetera? Questa mi sembra Gianfranco, questa è una carenza dell'Inter che tutti quanti abbiamo o hanno sottolineato, cioè è qualcosa di acclarato il fatto che nell'Inter manchi un direttore d'orchestra. Aggiungo però un'altra cosa, secondo me Mancini aveva tentato questa via rivoluzionaria di una squadra che prescindeva dal modulo e prescindeva dagli interpreti o dalla maggior parte degli interpreti. Era qualcosa di mai visto, no? E l'abbiamo anche in parte elogiato per questo, perché riusciva a stare agli 1-0, ma a gestire un campionato di vertice in questa bizzarra maniera. Io credo che questo modo di gestire la squadra gli sia rivoltato contro, perché abbiamo visto che il Napoli ha trovato il passo quando ha scelto modulo e orchestranti. La Juventus la stessa cosa, perché dopo la partita persa con il Sassuolo, Allegri ha disegnato una squadra molto diversa e ha scelto, battezzato gli 11 titolari, che poi vengono saggiamente rimpiazzati con grande costrutto in corso d'opera. La stessa cosa sta facendo il Milan, perché il Milan gioca un calcio estremamente semplice dal punto di vista tattico in questo momento, gioca il suo 4-4-2, anche qui Mihajlovic ha scelto gli 11 giocatori che sono più funzionali, che gli danno maggior affidamento in questo momento, e va con quelli, e il Milan è una squadra che sta crescendo. Io credo che questa gestione da parte di Mancini abbia alla fine disorientato la squadra, e credo che questa possa essere anche una spiegazione del fatto che dal punto di vista del gioco l'Inter non è mai riuscita a fare un passo in avanti. Dunque, vediamo chi farà un passo, proviamo a capire chi farà un passo in avanti magari sul mercato che si chiude alle 23 di oggi. C'è Tancredi Palmieri all'Ata Quark Hotel, che è il cuore del mercato. Ciao. Buongiorno ragazzi, la verità sono dovuto allontanarmi una mezz'ora fa dall'Ata Quark, sì, perché da quando è arrivata la notizia di Guardiola, noi di Bin l'avevamo data 8 mesi fa a luglio, per cui è un piccolo terremoto editoriale che ci sta sconvolgendo un po' i piani, quindi stiamo riorganizzando un pochino le cose. Sì, questo posso capirlo, ma l'ufficialità è arrivata oggi, ha firmato per 3 anni e sarà il nuovo allenatore del City. Che cosa hai capito invece, captato quando eri lì all'Ata Quark? Ma che si fa le nozze solo con i fichi, neanche secchi, guarda. Mm-hmm. Neanche l'arte di metterli al sole ad essiccare. Il punto è che la verità non è nemmeno un fatto di soldi, perché ormai andiamo ripetendo da tanto tempo da noi non ci sono soldi. Però se ci pensiamo un attimo, nelle ultime 2-3 sessioni di mercato, un Hernanes qua, uno Shaqiri là, un Balotelli là, qualcosa è sempre successo, anche con una decina di milioni. Se tu ci pensi, mister Genta, in questo mese, tranne Eder, vogliamo metterci il ritorno del Sharawi, ma veramente sbolognato, voglio dire, ma tranne Eder non è successo niente. E non è soltanto un fatto di soldi, perché se ti guardi intorno, in Spagna non è successo quasi niente, anzi niente. Certo. In Inghilterra quasi niente, qualche offerta dell'Leicester e basta. Chelsea niente, vabbè, ritorno di Pato in prestito, capirai. Vabbè, hanno lottato, è una notizia di colore questa. Esatto, al ma 3 settimane hanno discusso col Corinthians, il Corinthians voleva dateci 10 milioni, mica 50, 10. Uh-huh. Il Chelsea, no, prestito, 3 settimane, non è un fatto di soldi. Io credo a questo punto che sia differente, anche perché comunque sia in Inghilterra e in Germania sono più ricchi che in tutti gli altri paesi, tolto ovviamente tra Madrid e Barcellona. Io credo che sia successa una cosa, siamo arrivati almeno in questo momento a un punto di svolta, è un fatto di talento. Cioè tutti i giocatori che potevano cambiare qualche cosa, in grande o in medio o a medio raggio, sono stati tutti presi. Sì. E nonostante i soldi che non hanno mai avuto così tanti in Inghilterra, a questo punto non sanno più chi prendere. Non quello che ti può cambiare situazione. Diciamo che non è il che questa finestra di mercato non è il momento opportuno, ad esempio, per trattare Pogba, perché questa è una trattativa che richiede tempo, spazio e un sacco di denaro. Storicamente adesso si mettono grosso modo delle pezze. È chiaro che le pezze di quest'anno sono state di qualità molto inferiore rispetto a quelle che abbiamo visto in passato. Oggi c'è Quagliarella che è ufficialmente andato alla Fiorentina, c'è però se pensi anche se guardi tu per esempio la rosa della Sampdoria, Quagliarella alla Sampdoria naturalmente, sì, sì, alla Fiorentina è andato Benaluan invece, ex giocatore dell'Atalanta, ufficiale però a Roma e lo sapevamo già da prima. Banega non arriverà ora all'Inter, che si discuteva di denaro, ma arriverà a scadenza di contratto, quindi a giugno. Che altro? Si è sparsa questa voce, ma tu l'hai sentita, di un Inter pronto a cedere Icardi per 25 milioni? Ma io ho fatto 2 ponti telefonici con l'Inghilterra, 0-0, dicevano, sentivo che citavano Liverpool e Arsenal, non ho trovato francamente uno straccio di conferma. Sì. Credo sia qualche rumore, qualche gorgoglio post derby, post delusione, ma non credo. Poi mi sembrerebbe strano, sai, vendi Kovacic a 35 e vendi Icardi a 25, cioè sarebbe, sì, vorrebbe proprio dire sbolognarlo in quella maniera lì. Non sarebbe pazza Inter, sarebbe Inter Basaglia, se fosse così davvero. Non avrebbe senso in questo senso. Guarda, forse qualcosina oggi, forse giusto il Leicester ancora forse potrebbe farla, che è stato respinto 2 volte nei tentativi per Niang, ha un presidente che comunque sia ci sta credendo alla follia di riuscire a vincere la Premier. Hanno avuto questa settimana di pausa perché c'è stata l'FA Cup e quindi per respirare, per non farsi prendere dalla frenesia del campionato, dal vincere o dal perdere, forse qualcosa potrebbe tentare negli ultimi giorni questo, ma nel momento in cui la FIFA ha anche dato la cautelare sulla cautelare a Real Madrid e Atletico, in questo momento tu senti, è come quel minuto prima dei 100 metri alle Olimpiadi, sì, chiaro. Che si crea un silenzio e tu senti che si stanno tutti raccogliendo per sparare quest'estate, che quest'estate sarà un mercato pazzesco. E beh, anche perché Guardiola io credo che qualcosa allo sceicco chiederà. Tutto, si piglia tutto. Si piglia guarda, tutto, parla con casa tua, perché secondo me quest'estate si piglia anche te, Guardiola. Prontissimo, guarda. Ho già il biglietto aereo per Manchester, dove mi fermerò per tutta la vita. Grazie Tancredi. A voi ragazzi, un abbraccio. Alla prossima, Tancredi Palmeri. Dunque, torniamo agli ascoltatori, ma prima di Gianni e Paolo voglio farvi sentire una cosa, perché mi piace da morire. La top 3 delle dichiarazioni del weekend. E qui si parte con un personaggio magari ai più non molto conosciuto, cioè Antonio Vacca, giocatore del Foggia. Primo capitolo. Se sei di Benevento? Sì, sono di Benevento. Attendo, rispondo un po'. Sì, è giusto fare... Tu riesci a fare. Saresti un professionista? Io sono un professionista. No, io ti volevo fare una domanda. Quei gestacci verso i tifosi? Non ho fatto nessun genere. Non era... No. Ho fatto una visita dall'occhio. Ah, io? Di essere uomo, almeno prendi sì. La responsabilità di te. Uomo. Chiedi alle donne a Benevento se sono uomo. Vai un altro. Quando sono in campo, quello che mi circonda non mi tocca. Mi piace istigare la gente a prendere per il culo, come abbiamo preso per il culo tutti i giocatori del Benevento con il nostro gioco. Delicatissimo, signora. Antonio Vacca, giocatore del Foggia, delicatissimo. Sono ragazzi, certamente. Mihajlovic i pantaloni strappati. Sì, sono andato, poi mi sono rotto pure i pantaloni sulle ginocchia. Però va bene, gli sponsor ce lo riprendono gli altri. Spero almeno, se no vado in giro come vestito male. Però comunque sono molto contento, perché era un rigore decisivo. Se avessimo subito gol, chissà come sarebbe finita, però va bene così. E infine Montella, che vorrebbe prendere un caffè con... Poi dai, ecco, mi piacerebbe a fine partita con gli arbitri prendermi un caffè a prescindere dai risultati. Gli arbitri sono permalosi, leggono e poi ti fanno pagare quello che uno dice. Quindi mi piacerebbe potergli dire quello che dire con molta tranquillità. Ecco, mi piacerebbe a fine partita con gli arbitri prendermi un caffè a prescindere dai risultati. Penso che potrebbe essere un buon, magari anche davanti a delle immagini, potrebbe essere un buon modo per poi andare in conferenza stampa ed essere più sereni, però molti di loro fanno fatica pure a parlarti e questo dà particolarmente fastidio. E questo, signor Vincenzino Montella. Gianni, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Io sto sentendo con particolare interesse la sua trasmissione, per quale le faccio i complimenti. Detto grazie. Questo, sì. Da quello che si evince dopo un'ora quasi di trasmissione, è che sembrerebbe che l'Inter ha perso per demeriti propri, perché ha un allenatore incapace, perché Icardi, per questo e l'altro. Io sono milanista, la dico, finalmente, ma dall'altra parte c'erano altri 11 uomini che ieri sera li hanno letteralmente aggrediti, non gli hanno permesso di giocare, hanno giocato con una rabbia in corpo che ovviamente non hanno mai avuto. E a questo punto i complimenti a Sinisa gli vanno tutti, ma sì. Non solo per ieri sera, per aver avuto anche il coraggio di lanciare un ragazzino di 17 anni in porta, di recuperare uno come Niang, che praticamente è da anni lì al Milan e praticamente non aveva mai trovato spazi con gli allenatori precedenti. Sì, è andato al Genoa a fare una buona stagione, percorso che ha fatto anche Suso, e sta giocando ha avuto un inizio di avventura molto promettente. Guardi Gianni, tutti i complimenti vanno fatti a Mihajlovic. Il Milan ieri sera ha giocato certamente la miglior partita stagionale. Ha giocato soprattutto un eccellente secondo tempo, dopo una primo che è stato più equilibrato, se vogliamo anche più interessante, forse proprio per quella pazza idea di Mancini, che ha schierato due centrocampisti e quattro punte, quattro attaccanti, quattro giocatori offensivi. Poi il centrocampo del è stato letteralmente spazzato via dal Milan, tanto che, ripeto, Kučka e Onda hanno giocato la loro miglior partita in rossonero. Quindi ci sono queste due cose. Certamente il Milan è una squadra in crescita, ma per i motivi che ho detto prima, perché sta trovando un'identità, una semplice filosofia di gioco e anche degli interpreti che vanno in campo in maniera continuativa. Quindi tutto questo certamente è vero. Vi faccio sentire invece, a proposito di Mihajlovic, lei vuole fare un applauso a Mihajlovic, è stato chiesto a Berlusconi dopo la partita se anche lui se la sentiva di fare un applauso a Mihajlovic e magari di allungargli un nuovo contratto. Sì, credo che la squadra se li meritasse. Se Mihajlovic è allenatore del Milan, significa che la società ritiene che lui stia lavorando bene. Si è meritato la conferma per la prossima stagione o si vedrà Mihajlovic? Questo adesso è prematuro parlarne, francamente. Prematuro. Paolo, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Rubo un attimo. Prego. Volevo soltanto dire, l'Inter va bene, ieri un disastro, penosa, non è a livello proprio neanche di Serie A una squadra del genere, e ha favorito il Milan a farlo sembrare stellare, ma al di là di tutto del derby, che un derby, vabbè, uno deve vincere, uno deve perdere, al limite pareggi, quello che voglio dire io vedo proprio il calcio in tutte le squadre di Serie A è a un livello veramente bassissimo. Ci siamo stupiti, la Juve che fa 4 gol, il Napoli che ne fa 5, ma contro chi? Diciamo una domanda, ma contro chi? Però Paolo, diciamo che c'è una, insomma, la forbice si è allargata, che il divario tra le prime 4-5 e le altre dal punto di vista dell'organico è molto più forte rispetto al passato. Però mi scorrono davanti agli occhi i risultati e le classifiche degli ultimi turni degli altri campionati. Il Paris Saint-Germain ha, mi sembra, 21 punti di vantaggio sulla prima squadra che segue e che è il Monaco. Il Bayern di Monaco ha già vinto il campionato, come abitualmente accade a febbraio-marzo. In Spagna la lotta è ridotta alle solite tre squadre, perché adesso sono tre e va bene, c'è anche l'Atletico, molto più spesso sono due. E i risultati si misurano con il pallottoliere 6-0, no, ieri, correggimi se sbaglio, Giorgio De Luca del Real Madrid. Non è che da altre parti sia una minestra molto diversa, questo non per dire che la nostra è buona o migliore, però non è che da altre parti tra le corazzate e chi sta in mezzo alla classifica ci sia poco divario. Non trova. Amatori, perché non è possibile in Serie A vedere 6 gol, come adesso mi dice lei, all'estero anche di là 5-0, 6-0. Non è possibile in Serie A vedere 6 gol, 5 gol. Vuol dire che stai giocando contro una squadra che non è all'altezza. Sì, cioè sì, non sì. È neanche all'altezza di stare in Serie A. Sì. Vedo un livello veramente. Allora torniamo a parlare insieme in coro con Sarri e con Benitez di fatturati. Questo è un discorso che ci può stare. Insomma, parliamoci chiaro: non vedremo mai più, io credo, un Verona vincere lo scudetto, il Bologna vincere lo scudetto, perché c'è una differenza tale di risorse, quindi di profondità di rosa, quindi di talento, quindi di qualità, tra le squadre che partecipano alla Champions League e che sono milionarie e tutte le altre che invece hanno i soldi con diritti televisivi e quant'altro per fare le squadre che possono fare. Non possiamo farci nulla, io credo, non possiamo farci nulla in Italia e negli altri paesi, con una leggera eccezione per l'Inghilterra, dove lì i soldi ce li hanno praticamente tutti. Enzo Brindisi, buongiorno. Sì. Ciao a tutti, buon lavoro a tutti. Volevo dirvi solo questo. Una, premetto che sono juventino. Due osservazioni. Una su Montella, che non dovrebbe prendersela con gli arbitri, ma con il suo presidente che continua a vendere di tutto e di più. E l'altra sull'Inter, che prima parla con Pirlo, segue Pirlo e poi prende un attaccante. Mi sembra alquanto strano. Buona giornata. Grazie Enzo. Alquanto strano non saprei, perché l'Inter ha probabilmente tentato di prendere Pirlo, il quale ha deciso di non rientrare, di rimanere dov'è, di rimanere negli Stati Uniti e di, in questo modo credo, di abdicare al sogno degli europei. Probabilmente una decisione che è venuta così, che l'Inter lo abbia cercato è indiscutibile che sarebbe stato giocatore importante, è banale dirlo, però questa è la così è andata. Ma io credo che di un attaccante l'Inter avesse, di un attaccante con le caratteristiche di Eder, l'Inter avesse in fondo anche bisogno, certamente avrebbe bisogno di un direttore d'orchestra in mezzo al campo, ma questo lo sanno anche i Sassi, pure questa è diventata quasi una banalità. Nicola, provincia di Varese. Buongiorno, buongiorno. Piacere di... Piacere mio. Ok. E niente, sono d'accordo con lei che Mancini è un manager. Mancini è bravo, non è vero quello che si dice, e secondo me quando ho litigato con Sarri è perché, non è che sono un psicologo, però mi sembra di intuire, perché Sarri è un uomo nuovo del calcio e è rimasto male e ha risposto così, cioè secondo a mio parere, e ci è rimasto male perché Sarri a detta di tutti è un stratega, è una persona che si è fatta gavetta, è un filosofo nel senso buono, e quindi sa fare, e quindi sicuramente Mancini non penso che sia un gay oppure per... no, non è questo il punto. Mancini si è preso quegli insulti, si è imbestialito e ha fatto questa pubblica dichiarazione con tutte le conseguenze che ne sono derivate, che ci porteremo dietro per un po', però diceva bene Pardo, per legge del contrappasso, ieri ha fatto una figura che fa a gara con quella di Sarri, sia uscendo dal campo che poi con la collega di Mediaset. Quindi questi sono i fatti. Roberto, Napoli, buongiorno. Buon pomeriggio, Roberto. Volevo dire una cosa riguardo all'Inter. Cioè, il fatto che per esempio l'Inter il sabato compra un giocatore e la domenica lo scende in campo in una partita anche importante come derby, dimostra il fatto che l'Inter non gioca, non ha un gioco, non, il giocatore non deve studiare i movimenti, posizioni, dopo lo mettono in campo. Napoli non, cioè, Napoli quando come un giocatore lo fa allenare un paio di settimane. Sì, però c'è un precedente che lei ricorderà, che riguarda proprio l'Inter di Mourinho, che qualcosina ha vinto, che fece giocare Sneijder appena preso e appena sceso dall'aereo. Prese direttamente la via degli spogliatoi di San Siro, entrò in campo nel derby e giocò una grande partita. È vero che se sei in difficoltà può venirti questa tentazione, però si tratta anche di una, può essere una mossa psicologica, può essere una nuova spinta emotiva. È chiaro che ieri ci saremmo tutti aspettati di vedere Eder accanto a Icardi come era nei pronostici e forse anche nei piani di Mancini, magari presenti no, ma futuri credo. Ci fermiamo qui, ragazzi. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Menni in redazione, ma domani torniamo, perché i temi sono talmente tanti e le telefonate talmente tante che varrà la pena riannodare i fili del discorso. Ciao a tutti. Saluti.